Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più sventante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però. We can hear you, yep. Thank you very much, Commissioner Han. Obviously, at all times, we should be trying to get the maximum bang for. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non avete sbagliato stazione, non vi si è spostata la frequenza. Buongiorno da Mauro Meazza, questo è Due di Denari e questa è Radio 24. La voce che sentite è quella di un parlamentare irlandese che è del gruppo da sinistra europea, era in videochiamata con la Commissione per l'agricoltura al Parlamento europeo e l'ha fatto questa videochiamata seduto sul letto, cose che succedono nel periodo dello smart working, del telelavoro, del lavoro a distanza. Però l'inquadratura era un po' larga e quindi tutti hanno potuto vedere che indossava sì la camicia ma non i pantaloni. È uno dei tanti effetti dello smart working, effetti ridicoli dello smart working o comunque del lavoro da casa, tra cui appunto c'è stata oggi diffusa una serie di raccolte di gaffe di situazioni imbarazzanti. Ricorderete quella del giornalista spagnolo che avendo un'inquadratura anche lui molto larga ha offerto anche una panoramica di una signorina in biancheria intima alle sue spalle, che purtroppo per lui non era la sua fidanzata ufficiale. Quindi è stata anche una situazione abbastanza imbarazzante, ma poi ci sono anche i vari rumori che intervengono, ovviamente i figli piccoli, i fattorini che arrivano, il citofono che suona, eccetera, eccetera. Insomma, lavoro all'epoca del coronavirus, del lockdown e di tutte queste parolacce che abbiamo dovuto imparare, oggi ne parliamo a Due di Denari perché è mercoledì e mercoledì è appunto il momento del lavoro. E parleremo di lavoro con Aldo Bottini, che è venuto a trovarci. Aldo Bottini è il presidente dell'Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, interviene qui questa mattina soprattutto e sostanzialmente come esperto del sole, avvocato giuslavorista naturalmente. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Grazie, buongiorno. È un vero piacere essere qui anche nel vostro studio di persona. Esatto, molto bene, perché mi ha aiutato l'avvocato Bottini ad annunciarvi una cosa a beneficio di coloro che non potessero giovarsi della visione degli studi. Sapete che siamo anche ripresi in video, ad esempio sul Facebook, ma anche sul canale web nostro di Instagram Radio 24 Web su YouTube. Ecco, coloro che possono vederci in questo modo, che ci vedranno in questo modo, sapranno che abbiamo finalmente un ospite in studio. Per noi di Due di Denari è un grande ritorno. Ne abbiamo approfittato perché quest'oggi Deborah mi ha lasciato solo, ha preso un giorno di pseudo vacanza, diciamo così. Domani però sarà assolutamente presente per il primo Investire Informati della nuova stagione. E, dicevo, parliamo di lavoro anche perché l'Istat ha diffuso, sapeva che oggi avremmo ripreso con il mercoledì del lavoro a Due di Denari, e quindi l'Istat ci ha fornito i dati sull'occupazione. È stato molto cortese l'Istituto di Statistica. I dati sull'occupazione ci dicono che c'è stato un rimbalzo, per dir così. L'occupazione ha segnato sul mese un aumento di 85.000 posti, quasi interamente donne. È una buona notizia, sappiamo che l'occupazione femminile in Italia è più indietro rispetto a quella maschile. Nella fascia di età tra i 35 e i 55 anni e a tempo indeterminato. Qui finiscono però le buone notizie, perché poi invece, andando nel dettaglio, si vede che hanno subito molto gli effetti della pandemia le categorie del tempo determinato e dei giovani. Chiedo già un commento subito all'avvocato Bottini. Quanto ci raccontano in realtà questi dati? Cosa ci raccontano in realtà questi dati, Bottini? Ma allora, è chiaro che tutte le volte che c'è un qualche dato positivo, soprattutto in questo momento, tutti noi siamo contenti. Io temo che questo dato possa essere in qualche modo falsato o comunque possa non rispecchiare effettivamente la situazione reale dell'occupazione per via del blocco dei licenziamenti. Cioè, noi non sappiamo effettivamente se oggi, già oggi, fosse possibile licenziare, e purtroppo sappiamo che, ahimè, molte aziende saranno costrette a farlo. Non sappiamo quale sarebbe il saldo. Certo, no? Quindi quale sarebbe l'effetto di un... quale sarà poi l'effetto dal 2021, perché questa è adesso al momento la data prevista, se salterà, se verrà tolto il blocco dei licenziamenti, allora quello sarà il dato che ci racconterà la verità sul lavoro e gli effetti della pandemia sul lavoro. È così. Ci concentreremo questa mattina però soprattutto sul tempo lavoro a tempo determinato e sullo smart working, perché sono appunto i due momenti, diciamo così, caratterizzanti di questo 2020. Vi ricordo i nostri numeri. Per entrare in contatto con noi potete comporre il numero verde 800 24 00 24, oppure scriverci un sms o un messaggio via WhatsApp. Il numero in questo caso è 349 238 6666, e con la collaborazione della regia, Peter Bescapè sempre vigile e presente, e dell'ottimo Marco Lombardo, pure lui sempre attento, noi andiamo con il giornale radio del risparmio, che come sempre, come ogni mercoledì, è un po' un giornale radio del lavoro. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Allora, ne abbiamo parlato anche ieri. Ieri chi ci segue sa che abbiamo parlato dei bonus per il trasporto, del trasporto privato, del trasporto pubblico, gli incentivi per le auto che sono in rapido esaurimento, e poi c'è questo incentivo per le bici e i monopattini, e questo incentivo per la mobilità sostenibile bisogna aspettare. Se l'avete comprato, avete comprato più o meno quello che in finanza si definirebbe un future, cioè un titolo che vedremo poi che cosa vi renderà in futuro. Che cosa è successo fuori di Celia, ma lo diciamo più che altro per alleggerire, ma con una certa amarezza, che è slittato a inizio novembre l'avvio del portale, il portale che il Ministero dell'Ambiente deve predisporre, deve rendere operativo per poter utilizzare il bonus bici. Allora, se avete comprato la bicicletta dopo il 4 di maggio e volete far valere, fino al 31 dicembre è possibile, questo acquisto per ottenere un bonus che copra parte della spesa, e allora dovrete collegarvi con questo portale. Il problema è che il portale doveva debuttare a giugno, poi è stato detto che avrebbe debuttato a settembre, e adesso ci hanno detto che debutterà a inizio di novembre. Quindi è uno slittamento che, spiegano dal Ministero, è dovuto a un rallentamento amministrativo. La buona notizia, per dir così, è che avremo pazienza, però vogliono lanciarlo questo portale quando tutti i 210 milioni che sono stati stanziati saranno disponibili. Allora, che cosa comporterebbe questo ritardo con però risorse? Comporterebbe che non avremo il click day, o non dovremmo avere un click day, cioè la corsa a chiedere il bonus, perché ci sarebbero soldi per tutti. Speriamo che sia così. Come sono andate le nostre spese durante il lockdown? Abbiamo avuto in qualche caso la possibilità anche di spendere meno, diciamo così, di risparmiare, anche se è stato un risparmio forzato. Secondo una indagine che ha condotto facile.it con Map Research e Norstat, su un campione rappresentativo della popolazione nazionale è emerso che quasi una famiglia su due, cioè il 48%, parliamo quindi di 21 milioni di nuclei familiari, ha dichiarato di essere riuscita a risparmiare tra marzo e giugno in media 480 euro. Più che risparmiare, forse io userei uno spendere meno, perché risparmiare vorrebbe dire che in qualche modo si è messo da parte con una prospettiva, mentre qui spesso non abbiamo potuto materialmente spendere. La voce di spesa su cui siamo riusciti a mettere da parte o a spendere meno è quella dell'RC auto e sulla bolletta della telefonia mobile. Evidentemente questo non riguarda chi poi invece ha dovuto ricorrere alla telefonia mobile per poter lavorare da distanza. siamo sempre attenti al bonus del 110%, è il bonus sicuramente preferito tra tutti i bonus e le novità fiscali di quest'anno. Ogni giorno sul Sole 24 Ore potete trovare delle indicazioni, degli approfondimenti. Anche oggi è così. C'è un articolo del collega Giuseppe Latour che segnala come in uno stesso condominio, lo stesso lavoro in due condomini diversi potrebbe avere o non avere il bonus del 110%, perché contano moltissimo le condizioni al contorno, in primis i lavori trainanti. Se volete approfondire il tutto, io vi segnalo che sul sito www.ilsole24ore.com è a disposizione per chi si abbona al sito, ma in questo momento, in questi mesi, è possibile farlo con condizioni particolarmente agevolate, è disponibile una guida completa al 110% che è stata rilasciata proprio da noi, dalla redazione, durante il mese di agosto. Quindi chi non l'avesse presa in edicola può adesso colmare la lacuna, per dir così, collegandosi al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Ultima notizia che ci porta ai temi del lavoro. Oggi segnaliamo che nelle città d'arte gli alberghi hanno avuto fatturati in caduta drastica, drammatica, in questo caso l'aggettivo è adeguato, perché si parla di un calo del 70, ma fino anche al 90%. Quindi la peggiore stagione per l'ospitalità italiana, per l'ospitalità nelle città d'arte, Roma, Firenze, Venezia, gli hotel, soprattutto quelli a 4 e 5 stelle, non hanno addirittura riaperto dal termine del lockdown per la mancanza di prenotazioni dall'estero, le limitazioni appunto non solo italiane ma anche degli altri paesi. Arrivi più che dimezzati, pernottamenti con un calo di almeno il 70%. Meglio invece nelle coste, lungo le coste, gli hotel delle località balneari in media accusano sì un calo, ma del 40% sia in termini di arrivi e sia in termini di presenze. E tutto ciò premesso, e prima di entrare proprio nel tema, nei temi del lavoro che affronteremo questa mattina con l'avvocato Aldo Bottini, abbiamo un primo dillo a due di denari della nuova stagione 2020-2021. Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Sono Luciano da Ravenna. Volevo dire, tutti questi incentivi per le macchine nuove che ne vengono dati a tutta gente che ha i soldi da comprarsi la macchina nuova. A spendere due o tre incentivi, che un passaggio di proprietà che costa una mattata 700-800 euro dalle nostre parti, per uno che ha un euro 2, un euro 3. Siamo pieni di macchine vecchie, io le vedo tutti i giorni, macchine vecchissime. Ma sarà mai possibile continuare a dare soldi a chi li ha già? Buona trasmissione. Dare o non dare gli incentivi? Ne abbiamo parlato a lungo anche ieri, è intervenuto anche un concessionario. Se volete risentire il tutto, www.radio24.it trovate i podcast, naturalmente, di tutti i programmi di Radio 24, e se andate proprio nella voce 2 di denari trovate il podcast della puntata di ieri, durante la quale abbiamo anche discusso della utilità o efficacia, maggiore, minore, chi può dirlo, degli incentivi per quanto riguarda il mercato dell'auto, che come sapete è caratterizzato da una transizione molto importante verso una mobilità più sostenibile, più verde, quindi macchine elettriche, altri tipi di combustibile e tutto quanto. Servono ancora gli incentivi? Ma noi per adesso parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro con l'avvocato Aldo Bottini. Allora, qui abbiamo, secondo me, così a mio insindacabile giudizio, avvocato, due temi che spiccano su tutti in questo periodo. Un tema è lo smart working. Poi spesso quando dico questa cosa, quando diciamo questa cosa con Deborah, ci correggono gli ascoltatori, giustamente dicono non stiamo facendo smart working, stiamo facendo telelavoro, stiamo facendo lavoro da casa, è una cosa diversa. L'altro tema è il tempo determinato. Perché il tempo determinato? Perché lunedì, cioè l'altrieri, con il Sole 24 Ore, lei ha realizzato una guida rapida, cioè un fascicolo di 4 pagine in cui spiega tutte le novità normative con le quali si cerca di arginare l'emorragia di posti che purtroppo sta colpendo i contratti a tempo determinato. Da cosa vuole cominciare, avvocato? Cominciamo da qui, dai contratti a tempo Prego. Determinato? A lei la scelta. No, ha detto bene, i provvedimenti che sono stati adottati adesso con il decreto rilancio hanno lo scopo di arginare l'emorragia, cioè di rendere più facile il mantenimento al lavoro, il mantenimento in servizio di chi ha un contratto a termine che scade o un contratto a termine che potrebbe essere rinnovato. Qui, per capire cosa ha fatto il decreto rilancio, magari un piccolissimo passo indietro. Noi sappiamo che un paio d'anni fa è stato approvato il cosiddetto decreto dignità. Era il luglio del 2018, sì. Esatto, che ha, al di là di quello che se ne possa pensare, perché anche tra gli avvocati giuslavoristi della nostra associazione le opinioni sono le più disparate, cioè chi ha applaudito ritenendolo un provvedimento giusto, chi lo ha molto criticato. Io personalmente sono del secondo avviso, sono di quelli che lo hanno, però ripeto, questa è una mia opinione personale. Cosa ha fatto questo decreto dignità? Ha reso più difficile prorogare e rinnovare i contratti a termine oltre i 12 mesi, perché ha sostanzialmente detto se si vuole andare oltre i 12 mesi ci vuole la cosiddetta causale, cioè bisogna spiegare qual è la ragione per cui si fa ricorso a un contratto a termine, qual è la motivazione. Ora, noi abbiamo un'esperienza vecchia di causali prima del 2014, perché era così anche prima del 2014, e questo aveva portato a contenziosi enormi, perché poi la causale andava scrutinata in tribunale e spesso era anche opinabile, il giudizio del giudice era da un certo punto di vista qualche volta imprevedibile. Questo fa sì che oggi, a causale reintrodotta, i datori di lavoro si guardino bene dal ricorrere a questa possibilità. Perché anche perché le causali che ha consentito il decreto dignità dal 2018 in avanti sono molto precise e circostanziate. Quindi assolutamente, riguardano casi tutto sommato residuali e molto, come dire, opinabili in giudizio, no? Cioè si dice per esempio che deve esserci un picco non prevedibile. Allora, chi decide se era prevedibile o non era prevedibile? Lo decide il giudice, e magari giudici diversi hanno un concetto di prevedibilità diverso. Certo. Quindi tutto questo per dire che in questa fase ci si è resi conto che era forse il caso di derogare, quantomeno per un certo periodo, per il periodo dell'emergenza, a queste restrizioni imposte dal decreto dignità. E quindi fino al 31 di dicembre sarà possibile rinnovare e prorogare i contratti a termine senza apporre una causale, anche se si va oltre i 12 mesi. Quindi c'è sostanzialmente un periodo di grazia, quindi fino al 31 dicembre è possibile fare rinnovi o proroghe di 12 mesi, sempre restando nel limite dei 24, perché quello non si può mai oltrepassare. Quindi chi ha un contratto che scade in questo periodo e che, essendo un contratto che era già arrivato a 12 mesi, avrebbe necessitato di una causale per il suo rinnovo, per la sua proroga, può prescindere, può fare una proroga o un rinnovo di 12 mesi. L'intervento del decreto, perché questo è un intervento molto recente, è un decreto legge, che abbiamo chiamato decreto legge agosto, sì. Ed è un decreto quindi che, come dice il suo termine, è in vigore dal 14 di agosto. Ma se il contratto a termine fosse scaduto in precedenza, ma già in epoca di emergenza sanitaria, di lockdown, eccetera, la possibilità di rinnovo senza causale riguarda appunto anche i rinnovi, non solo le proroghe. Quindi se un contratto era già scaduto in precedenza, può essere fatto un altro, è un rinnovo. Quello che non può essere fatto senza causale è una nuova assunzione oltre i 12 mesi. Questo non è ancora possibile. Non è stato liberalizzato, per dire così, non è stato consentito. No. Abbiamo in collegamento una collega molto brava che segue da tanto tempo, anche pur essendo giovanissima, se naturalmente, i temi del lavoro. Valentina Melis, buongiorno Valentina. Buongiorno Mauro, sei sempre troppo generoso. No, è che stavo facendo una gaffe terribile, non me l'avresti mai perdonata. Bravo. Allora, hai potuto ascoltare perché sei già collegata con noi da qualche minuto, quanto ci ha spiegato l'avvocato Bottini sul decreto legge agosto. I dati di ieri, ne abbiamo parlato a inizio trasmissione, che la troviamo oggi sul Sole 24 Ore, su tutti i giornali, ci dicono che il lavoro a tempo determinato, i contratti a termine sono una delle vittime maggiori, insieme probabilmente ai contratti di tipo stagionale, della pandemia. Mi pare che questo sia un dato di fatto, Valentina. È così, perché diciamo chi ha fatto le spese maggiori di questa crisi per adesso sono proprio i cosiddetti indipendenti, cioè i lavoratori autonomi e i contratti a termine. Stante il blocco dei licenziamenti che ancora comunque fino a fine anno si applica ancora per quasi tutte le tipologie di licenziamenti, sì, sicuramente per quelli economici. Ci ha ammonito infatti proprio in apertura di trasmissione l'avvocato Bottini su questo, dicendo attenzione a leggere questi dati, siamo sotto questo periodo di grazia, così l'abbiamo un po' definito, in cui non si sta licenziando, non si può licenziare. Poi temiamo un pochino il primo gennaio del 2021, non sappiamo che cosa succederà in quel momento. Scusami, ti ho interrotto per dare questa precisazione. Correttamente diceva l'avvocato Bottini, richiamava questo elemento. Comunque i contratti a termine, dicevamo, sono quelli che hanno fatto le spese per adesso più gravi di questa crisi, perché ci sono 498.000 contratti a termine in meno su base annua, cioè fatto un confronto tra luglio 2020 e luglio 2019 ne abbiamo persi 500.000. Già a maggio avevamo rilevato il crollo degli stagionali, che sono calati del 66% su base annua, cioè maggio è il mese in cui normalmente si attivano per il turismo, per l'hotelleria, per i ristoranti, molti contratti a termine, e infatti non a caso il decreto agosto al quale faceva riferimento l'avvocato Bottini introduce un esonero contributivo anche per le assunzioni a termine, cioè per 3 mesi, un esonero contributivo anche per assumere lavoratori diciamo a termine nel settore del turismo, perché è quello un po' in crisi. È vero che c'è stato un rimbalzo a luglio, concludo, con 85.000 posti di lavoro in più, ma questi dati italiani vanno letti alla luce un po' dei dati europei che Eurostat ha diffuso ieri. Per disoccupazione giovanile l'Italia è quasi maglia nera in Europa, peggio di noi fanno solo Grecia e Spagna, cioè l'Italia ha il 31,1% di disoccupati tra gli under 25, vuol dire che un giovane su 3 non lavora. E i contratti a termine poi spesso sono quelli attraverso cui accedono al mercato del lavoro i giovani, il 70% degli ingressi nel mercato del lavoro avviene con contratto a termine, e quindi questo spiega perché i giovani probabilmente sono quelli che hanno fatto più le spese di questa crisi economica. Allora Valentina, ci hai dato diversi spunti, tra cui anche quello dell'esonero contributivo, che poi chiederemo di valutare proprio all'avvocato Bottini. Io vi ricordo i nostri numeri di telefono per interloquire con noi, 800 24 0024, oppure se volete mandarci sms o messaggi via WhatsApp 349 238 6666. E adesso la parola ad Anna Marino per le borse. Pecunia non ho. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Torniamo a Due di Denari a parlare di lavoro. Parliamo di lavoro come facciamo tutti i mercoledì, oramai da diverse edizioni di Due di Denari a questa parte. Oggi stiamo parlando di lavoro con l'avvocato Aldo Bottini, che è qui in studio, è partner di Toffoletto De Luca Tammaio, è presidente dell'Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, ma qui è nella sua veste di esperto del Sole 24 Ore, nonché autore proprio l'altro ieri di una guida rapida dedicata al tempo determinato e alle novità varate in agosto per il tempo determinato. La potete trovare ancora sul Sole 24 Ore se andate sul nostro sito e selezionate appunto l'uscita di lunedì scorso. In collegamento la collega Valentina Melis, che proprio nella parte del Sole 24 Ore del lunedì segue spesso i temi di lavoro. Allora, ci siamo fermati su una indicazione di Valentina che ci segnalava l'esonero contributivo, quindi sì, misure di sostegno, misure di incentivo. Allora io do subito la palla all'avvocato Bottini per chiedere quante misure di sostegno sono più o meno previste con il decreto di agosto e se possiamo valutare la loro efficacia. Spesso si dice c'è poi il problema di vedere come saranno applicate la burocrazia, le circolari dell'INPS, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo finisce per rallentare, per ridurre un po' l'impatto che si aspetterebbe maggiore. Allora, gli incentivi sono sostanzialmente di tre tipi. C'è una decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato o per chi trasforma a tempo indeterminato dei contratti a termine. Questa è la prima forma di incentivo, di decontribuzione. La seconda, l'ha ricordato prima Valentina Melis, riguarda invece il settore del turismo e quindi riguarda gli stagionali, ma in generale i contratti a termine per il turismo, che sono incentivati, decontribuiti per 3 mesi. E poi c'è una terza forma di decontribuzione che riguarda il Sud. Credo che sia ancora sub iudice della Commissione europea per vedere che non si tratti di un aiuto di Stato, ma è prevista. Per quanto riguarda l'efficacia, se dobbiamo guardare al passato, in passato le incentivi, le decontribuzioni fatte nel 2015-2016 un'efficacia l'hanno avuta. Eravamo ovviamente in una situazione completamente diversa. Quindi, non solo non avevamo il Covid, ma viene da dire avevamo anche una fase moderatamente, lo dico forse anche per una terza volta, moderatamente espansiva, cioè esatto, un pochino stavamo crescendo, poco meno degli altri paesi, però c'era un pochino di ripresa. È chiaro che nessuno assume solo perché c'è l'incentivo, i datori di lavoro assumono se hanno bisogno di assumere, è chiaro che se sono magari lì incerti l'incentivo può avere una sua efficacia. Qualche ascoltatore dice vabbè, ma adesso però ci sono i fondi europei, il meccanismo cosiddetto SURE, no? Questa sorta di cassa integrazione europea, però qui diciamo mi pare siamo su un piano diverso, sì, cioè parliamo di sovvenzioni, di fondi, di aiuti, di risorse, ma non di una misura che deve servire invece a far ripartire. Quello è un ombrello, è un paracadute. Esatto. Quello è un paracadute per situazioni di crisi, di difficoltà e di caduta occupazionale. Gli incentivi dovrebbero servire a, appunto, come diceva bene, a ripartire. Vedremo, è chiaro che l'incentivo da solo non fa, bisogna che riparta l'economia, perché sennò... Non. Ma questi incentivi che sono stati varati dal 14 di agosto, perché quella è la data di debutto della efficacia del decreto legge agosto, che poi dovrà essere convertito in legge, quindi gli incentivi potrebbero ancora cambiare, certo, nel corso del dibattito parlamentare. Questi incentivi sono già, a parte quello del Sud, che è in attesa del via libera della Commissione europea, sono già operativi, cioè possono essere utilizzati già da oggi? Se oggi si presenta un cliente in studio da lei, un'impresa, sì, li può utilizzare? Sì, salvo poi vedere appunto l'aspetto amministrativo. Però siccome c'erano già stati in passato, io non credo che sia poi così difficile. È chiaro che l'INPS ci darà istruzioni operative, però la legge è già in vigore ed è già possibile utilizzarle. Allora, Valentina, ti richiamo in causa invece, però sfruttando un pochino la tua posizione, perché come molti di noi qui al Sole 24 Ore, a Radio 24, hai utilizzato lo smart working. Devi sapere che in apertura di trasmissione abbiamo mandato, abbiamo ricordato una delle gaffe più belle di questi collegamenti, delle videoconferenze del lavoro a distanza, in cui un deputato, un eurodeputato, si è presentato con una impeccabile camicia, ma assolutamente in mutande, ma non si era accorto che l'inquadratura era troppo larga e consentiva di cogliere questo aspetto. Allora, tu sei una smart worker anche questa mattina, mi pare tu sia lavorante da distanza, per dir così. Potrei raccontarvi anch'io diversi aneddoti, ma ve li risparmio, perché abbiamo fatto smart working, lezioni, io ho 3 figli, e quindi insomma aneddoti potremmo raccontarne tutti, insomma, ecco, di questo periodo. Ma dal punto di vista del nostro lavoro, appunto, del tuo lavoro di cronista, smart working adesso mi pare possiamo utilizzarlo in questa formula semplificata, quindi senza l'accordo individuale, fino al 15 di ottobre. Ma poi che visibilità abbiamo? Cioè, che cosa ci aspettiamo che succeda nell'ultima parte dell'anno? Ma allora possono succedere fondamentalmente 2 cose. Anche di questo tema ha autorevolmente scritto più di me l'avvocato Bottini nei giorni scorsi e nei mesi scorsi sul Sole. Allora, il 15 ottobre è la fine del periodo di smart working semplificato, tra virgolette, ovvero senza gli accordi individuali da sottoscrivere con i lavoratori, come prevede la legge quadro sullo smart working, la 81 del 2017. Possono succedere sostanzialmente 2 cose: o una proroga di questo stato di emergenza, perché sullo sfondo abbiamo poi l'influenza autunnale, il ritorno a scuola, quindi vedremo, insomma, credo, in base anche all'andamento dell'epidemia, se il governo riterrà di allungare questo periodo. L'ultima finestra, diciamo, di tolleranza stabilita dal decreto rilancio era il 31 dicembre, ovvero si possono portare a termine, diciamo, tutti i programmi di smart working avviati, ma il primo di gennaio del 2021 il legislatore aveva stabilito che si ritornasse allo smart working in base alle sue regole. L'altra cosa che può accadere è che, appunto, in mancanza, che sta già accadendo, in mancanza di una proroga di questo stato di emergenza e quindi di questo smart working semplificato per tutti, in cui il datore unilateralmente può mettere i lavoratori in smart working senza gli accordi individuali, le aziende si organizzino proprio per darsi un proprio piano di smart working, per stabilire quanti giorni far trascorrere i lavoratori diciamo fuori dalla sede aziendale. Possono essere 2 o 3 a settimana. Abbiamo già censito anche sul Sole del lunedì scorso alcune esperienze già avviate dalle aziende per il futuro, quindi anche per la prima parte del 2020, del 2021. E questo può accompagnarci, diciamo, anche come misura di sicurezza in chiave anticontagio, perché ricordiamo che comunque i protocolli per la sicurezza prevedono che lo smart working, laddove non ci siano forme diverse di distanziamento, possa essere utilizzato proprio in chiave anticontagio. L'ultima cosa che attendiamo è una decisione sui congedi, ovvero la ministra per la famiglia ha annunciato, a ministra Bonetti, che si stanno studiando delle forme di congedo da concedere ai genitori lavoratori nel caso in cui ci siano dei piccoli lockdown legati appunto alla quarantena o di allievi o di classi, insomma nel caso in cui il ritorno a scuola possa imporre degli stop al lavoro. Quindi il lavoratore ad oggi non ha delle forme di congedo diverse da quelle ordinarie, diciamo scaduti i congedi Covid, non ha più delle forme di copertura. Certo, questa può essere un'altra cosa che se sarà, no, dicevo, probabilmente introdotta. Se sciaguratamente, appunto, il ragazzo, il bambino, la bambina non possono andare a scuola perché si è verificato un caso di contagio, lì il lavoratore è in difficoltà perché deve occuparsene lui in qualche modo. A questo dovrebbe servire l'intervento annunciato dalla ministra. Sì, attendiamo però che assuma dei contorni più chiari, perché al momento potrebbe essere un emendamento al decreto agosto, appunto, ostante che questo è il provvedimento, il treno, tra virgolette, in Parlamento al quale si potrebbe agganciare questa nuova misura, non ne conosciamo ancora i dettagli. Avvocato Bonetti, ma Bottini, perdon. Quello è il ministro. Quello è il ministro. E tra l'altro, allora, avvocato Bottini, mi scusi, ma questi accordi invece di cui ci parlava Valentina Melis, cioè per cui l'azienda si può organizzare anche di qui fino alla fine del 2020, sono poi censurabili in qualche modo, oppure ha una certa tranquillità l'azienda nel disporli, nel mettersi d'accordo con i laboratori? In questo momento, per la legge attuale, c'è una notevole flessibilità di utilizzo, quindi c'è molta libertà. La legge attuale, secondo me giustamente, pone al centro l'accordo individuale fra datore di lavoro e lavoratore, quindi ipotizza uno smart working flessibile legato alle esigenze delle singole aziende e anche del singolo lavoratore, e presuppone che le parti, diciamo, si mettano d'accordo sul tipo di smart work, sì, su quanto si è presenti in azienda, su come si lavora da remoto, su quanti giorni, cioè tutte cose che possono essere stabilite negli accordi individuali. Siccome dal 15 ottobre allo Stato si tornerà al regime normale di smart working, ovviamente le aziende si stanno già organizzando per rivedere gli accordi individuali, se già li avevano, o per farne di nuovi. È chiaro che noi abbiamo avuto in questa fase, abbiamo vissuto uno smart working particolare, insomma, sì, non un vero smart working. Io non lo chiamerei telelavoro, lo chiamerei lavoro da remoto dell'emergenza, insomma, sì, perché il telelavoro ha delle sue caratteristiche particolari, anche normative molto importanti, qui io non lo chiamerei telelavoro. Aspetti, si fermi perché dobbiamo aggiornare i nostri ascoltatori e le ascoltatrici sulla viabilità. Però torniamo tra un momento e concludiamo il ragionamento sullo smart working. Adesso c'è il traffico. Due di denari. Ma invece di smart working non si può chiamare in italiano, visto che siamo in Italia, abbiamo una lingua stupenda, lavoro da remoto? Avvocato Bottini, forse era d'accordo con lei l'ascoltatore, avevate combinato questa cosa, no, per in cui... in realtà in italiano un nome ce l'ha lo smart working, però è lavoro agile, perché sì, la legge del 2017 lo chiama lavoro agile. Però è interessante comunque questo spunto, perché in questa fase noi abbiamo vissuto una forma particolare di lavoro agile, chiamiamolo lavoro agile, va bene, che è appunto fondamentalmente il lavoro da casa. Ma il lavoro agile non è lavorare da casa, perché sennò torniamo al progenitore, al telelavoro. E il lavoro agile non è neanche una misura di emergenza e di conciliazione vita e lavoro. Certamente importante quello che diceva prima Valentina Melis sui progetti della ministra Bonetti, va benissimo in una fase di emergenza, però attenzione al rischio di enfatizzare l'aspetto di conciliazione vita-lavoro. Il lavoro agile o smart working è un'altra cosa, è un modo nuovo e diverso di lavorare, vuol dire prescindere dal luogo e dal tempo e lavorare per obiettivi, quindi implica un cambiamento di mentalità dei lavoratori e del management. Ecco, però lo chiedo a tutti e due, cioè sia Valentina Melis che è in collegamento, sia a lei. Più di una volta, quando abbiamo parlato in questi mesi del lavoro agile o smart working, abbiamo anche raccolto le indicazioni, le lamentele, le preoccupazioni di molti ascoltatori che dicevano sì, però attenzione, perché così salta qualsiasi barriera, qualsiasi programmazione. L'orario di lavoro non si sa più bene quale debba essere. Il sabato o la domenica, insomma il giorno di riposo, quale che sia, non si sa più bene dove lo collochiamo. Gli stessi obiettivi, che pure dovrebbero essere centrali, mi pare di ricordare, sullo smart working, diventano via via più sfumati, forse perché non ci si vede in faccia e quindi diventa difficile. Non so, Valentina, ho riassunto abbastanza le critiche, ne hai altre da aggiungere a questo smart working obbligato che abbiamo dovuto fare? Ma allora, tutti abbiamo fatto critiche, riflessioni, ci siamo confrontati su una cosa che comunque ci ha fatto apprendere in pochi mesi ciò che forse avremmo appreso in anni di formazione, questo lo voglio dire. C'è un diritto alla disconnessione che nell'accordo individuale va disciplinato, cioè in base alla legge, posto che non venga cambiata la legge, La legge quadro sullo smart working prevede che nell'accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, tra gli altri aspetti che devono essere toccati, c'è il diritto alla disconnessione, cioè bisogna stabilire quali momenti di riposo, a quali momenti di riposo il lavoratore ha diritto. Questo lo prevede la norma, quindi non è che si possa, abbiamo lavorato tutti a tutte le ore in questi mesi per comodità nostra, per esigenze anche di ambientamento con una nuova tipologia di lavoro, ma diciamo a regime è previsto che ci sia un diritto alla disconnessione proprio per tutelare anche la salute del lavoratore. Bottini. Ed è previsto anche che siano fissati nell'accordo individuale i tempi di riposo, i tempi, è importante, che sono poi quelli di legge, cioè nel senso che non si può, bisogna avere ogni 24 ore 11 ore di riposo consecutivo, e questo vale anche per lo smart working, e ogni 7 giorni bisogna averne 24 di riposo. Allora è chiaro che gli accordi individuali devono ribadire che questi tempi di riposo devono essere rispettati e che in questi tempi di riposo ci si possa, anzi forse ci si debba addirittura disconnettere dagli strumenti di lavoro. Questo deve essere ribadito negli accordi individuali, nei regolamenti aziendali, e deve essere, come dire, digerito dall'organizzazione. Questo implica anche appunto un cambiamento di mentalità dei manager, dei capi, che devono imparare a non mettere a rischio l'azienda e la salute del lavoratore mandando le email di notte e la domenica pretendendo una risposta. Diciamo che la fase dell'emergenza un pochino ci ha condizionati, perché probabilmente ha fatto ritenere così che ci fosse una necessità di una disponibilità maggiore, molto accentuata da una parte e dall'altra, quindi gli stessi responsabili magari di settore si rendevano disponibili anche in orari non consueti, e così però i loro collaboratori, cioè i lavoratori in genere. Questo è un po' quello che succede, ma nella fase adesso che andiamo ad affrontare, cioè dal 15 ottobre al 31 dicembre, in cui c'è una certa ancora flessibilità, comunque tutte queste regole che voi ci avete ricordato restano. Sì, sì, ma queste restavano anche adesso, ci sono anche adesso, non è che adesso si possa non riposare 11 ore al giorno, bisogna comunque rispettare i tempi di riposo. Quello che accadrà dal 15 ottobre è che si torna alla normalità, quindi si torna agli accordi individuali. Vorrei affrontare un ultimo argomento che è stato pure gestito da lei ottimamente nella guida rapida che è uscita lunedì, cioè la somministrazione, il lavoro cosiddetto somministrato, perché è una modalità che, diciamo così, sulla quale si pongono sempre molte aspettative, però finisce spesso invece o sotto gli strali del legislatore, cioè subisce qualche modifica normativa che ne restringe l'applicazione o comunque ne condiziona l'applicazione, oppure fatica in qualche modo a prendere piede. Non so se questo mio inquadramento generale è corretto, se vuole precisarlo. Sì, meglio. È corretto, e soprattutto è corretto quello che lei ha detto sugli strali del legislatore, nel senso che da un po' di tempo a questa parte, io personalmente dico purtroppo, la somministrazione è finita nel mirino del legislatore, per cui con il decreto dignità sono state applicate alla somministrazione le stesse regole restrittive, soprattutto la causale, previste per i contratti a termine. Io ripeto, personalmente ritengo sia un errore, perché il lavoro, io l'ho anche scritto nella guida, il lavoro somministrato, se è a tempo indeterminato, è a tempo indeterminato, e quindi non si capisce cosa abbia di meno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato diretto. Se è a tempo determinato, anche dal punto di vista del lavoratore, è più tutelante del lavoro a termine diretto, perché una volta che il lavoratore rientra dalla missione a tempo determinato, è interesse dell'agenzia riposizionarlo, trovargli un altro posto di lavoro, riqualificarlo. Quindi, secondo me, io penso che tutto sommato sia sbagliata questa demonizzazione del lavoro tramite agenzia a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni. Sì, specialmente appunto, come ricordava lei, dal decreto dignità in avanti. E effettivamente le agenzie per il lavoro sono state un po', sono finite sul banco degli imputati, insomma, come anche simbolo di una certa così depauperamento, svilimento in qualche modo del lavoro, ma non è secondo un approccio giustificato. Secondo me questo non è affatto giustificato. Il lavoro tramite agenzia è comunque un lavoro regolare, un lavoro di qualità. E ripeto, è un lavoro in cui, siccome l'agenzia, il business dell'agenzia consiste nel collocare le persone, quindi chi lavora per un'agenzia talvolta ha più probabilità di essere ricollocato che non chi si presenta da solo sul mercato del lavoro a cercarsi un'occupazione. Abbiamo 2 minuti prima di chiudere la nostra trasmissione. Io voglio lanciarvi una cosa un po' così, come provocazione. Abbiamo i navigator, abbiamo cercato con il reddito di cittadinanza, ma non voglio parlare del reddito di cittadinanza, voglio parlare dell'altra gamba del reddito di cittadinanza, cioè i navigator, che dovevano in qualche modo aiutarci a colmare il divario che sempre c'è tra la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro. Non hanno funzionato, lo sappiamo, però c'è stata anche la pandemia e quindi il giudizio adesso credo dobbiamo sospenderlo. Ma attendere, cioè speriamo che la pandemia in qualche modo rientri nei ranghi o comunque sia più controllabile, attendere, questi navigator possono rivelarsi in qualche modo utili, avvocato Bottini? Allora, la priorità oggi, proprio anche in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti, sono le politiche attive. Se non si fa qualcosa sulle politiche attive, l'anno prossimo sarà un anno molto difficile. Politiche attive vuol dire aiutare la gente a cercare un lavoro, a riqualificarsi in vista di un possibile lavoro diverso, a migliorare le proprie competenze e a essere indirizzata verso un'altra occupazione. Questa è la priorità assoluta. Questa era l'idea che stava alla base della nascita dell'ANPAL nel 2015 ed era l'idea che stava alla base di una cosa, secondo me, giusta, che era l'assegno di ricollocazione, cioè che c'è ancora, sì. Però... E forse su questo bisogna puntare, cioè più che utilizzare persone di dubbia competenza come questi navigator che non si capisce, o formati comunque in fretta e furia, probabilmente l'idea di dotare il lavoratore che ne ha bisogno di un assegno spendibile nel pubblico e nel privato per formarsi, quindi per formarsi e per trovare, perdo per trovare il posto un altro di lavoro come conduttore a Radio 24, però mi iscrivo a qualche cosa, non lo so, programmatore. Uso questo assegno per andare ai centri per l'impiego se voglio, oppure torniamo all'agenzia presso un collocatore privato, perché no? Spendendo. E si crea in questo modo anche una sorta di concorrenza fra chi colloca meglio. E questo potrebbe essere uno dei rimedi che sicuramente dovremo mettere in atto per sopperire allo shock occupazionale da pandemia, che abbiamo cominciato a vedere, ma avete ascoltato questa mattina Aldo Bottini, partner di Toffoletto, De Luca Tamaio, esperto del Sole 24 Ore, e Valentina Melis. Purtroppo già soffriamo per l'occupazione e gli effetti della pandemia e temiamo che il 2021 possa ancora portarci peggiori notizie. Due di Denari torna domani con Investire Informati e naturalmente con Deborah Rosciani. Buona giornata! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.